Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera è con noi un grande giornalista, Yash Gavronsky, che ci racconta nell'ultimo libro i suoi incontri, gli incontri professionali, quelli con grandi personaggi che ha potuto intervistare. Il libro si intitola A cena dal Papa e altre storie, pubblicato da Aragno, 176 pagine, 15 euro. L'autore, come ricorderete, è un famoso giornalista, come dicevo, è stato corrispondente della RAI da molte sedi per tanti anni, poi dalla Fininvest, collaboratore della Stampa, poi ha avuto una fortunata carriera politica nelle fila del centrodestra. Il Papa al quale si riferisce il titolo naturalmente è San Giovanni Paolo II, che Gavronsky ebbe modo di incontrare anche per una lunga intervista nel 1998, un'intervista che allora ebbe un enorme risalto, un grandissimo impatto e che anzi fu definita da un prelato del Vaticano importante quasi quanto tre encicliche. Qui tra l'altro nel libro troviamo il testo completo di quell'intervista, perché allora da alcuni collaboratori del Papa avevano fatto capire che alcuni brani, alcuni riferimenti avrebbero dovuto essere per così dire limati. E oltre a questo testo integrale troviamo altri incontri di Gavronsky, per esempio quello con Fidel Castro, quello con Giovanni Agnelli e il riferimento a tante altre situazioni. Bettiza nella prefazione ricorda i primi passi di questo professionista che era fin da subito animato, scrive Bettiza, dalla passione di scoprire luoghi insoliti, pressoché dimenticati o quasi scomparsi. Basterà scorrere, aggiunge Bettiza, per accorgersene le suggestive pagine dedicate in questo libro all'ignoto Bhutan, un buco sperduto tra i confini di Cina e India che quasi nessuno ha mai visitato, nessuno tranne questo inesausto e curioso giramondo italo-polacco, al quale adesso rivolgiamo alcune domande. Buonasera Yash Gavronsky. Buonasera. Yash Gavronsky, nel suo libro, nelle prime righe del suo libro, lei spiega di sentirsi un giornalista che preferisce descrivere più le persone che non le cose. Qual è la differenza tra questi due tipi di giornalismo? Beh, non vorrei dire che c'entra anche un elemento di pigrizia, perché descrivere personaggi è molto più semplice, molto più, forse più difficile, ma diciamo certamente consuma meno tempo, perché si tratta di incontrare la persona, vederla e poi decidere come fare. Gli avvenimenti bisogna partire, viaggiare, seguirli, approfondirli e quindi è una cosa, diciamo, una cosa più complicata. Io questa scelta l'ho fatta non per pigrizia, ma perché ritengo che in fondo gli avvenimenti derivano dalle persone che li determinano e quindi se si va a cercare i personaggi, i protagonisti, si va un po' come alle fonti dei fatti, degli avvenimenti, alla fonte. Secondo lei questo giornalismo, questa voglia di andare alla fonte esiste ancora? Questa passione? Sì, esiste la passione, credo che esiste, forse il mercato è un po' diverso perché non ci sono più, diciamo, queste grandi inchieste che si facevano una volta, i giornalisti partivano a fare un'inchiesta in un paese, ci stavano due mesi, anche tre mesi, questo oggi è impensabile perché c'è troppa informazione da tutte le parti e nessuno ha la pazienza, la voglia di passare tanto tempo per spiegare un fenomeno o un paese. Certo, veniamo all'intervista con uno dei personaggi che credo l'abbia più colpito, cioè San Giovanni Paolo II. Lei a un certo punto, quando parla con il Papa, accenna al fatto, o meglio lo dice il Papa, che il ruolo della caduta del comunismo non fu tanto se stesso, non fu tanto il Papa, quanto lo Stato cristiano, quanto il cristianesimo. Ecco, oggi si potrebbe dire la stessa cosa. San Giovanni Paolo II potrebbe ripetere un giudizio così importante sul ruolo svolto dalla cultura cristiana in questa fase della storia? Prima di tutto direi che lui, quando dice, io gli chiedo qual è stato il suo ruolo, e lui dice, ma sa, parlando di me io non posso dire qual è stato il mio ruolo, cioè si schernisce, dice, per falsa modestia, non so, quindi un po' lui stesso io credo che fosse giustamente convinto che il suo ruolo sia stato molto importante, però non risponde in questa maniera, risponde appunto che la religione, che la fede che ha determinato tutti questi avvenimenti, ma credo che oggi la forza della religione, la forza della fede in quei paesi ex comunisti è molto minore. Insomma, la persecuzione comunista ha temprato, ha rafforzato, era una manna per la Chiesa, perché ne ha fatto veramente un'organizzazione fortissima e importante. Oggi tutto questo non esiste più. Più volte in questa conversazione il Papa sembra propendere per il riconoscimento di un nocciolo di verità nel marxismo. Ecco, qual era secondo lei la posizione di Giovanni Giovanni Paolo II sul marxismo? Ma io direi che va anche oltre proprio riconoscere un nocciolo di verità. Insomma, dice che il marxismo ha combattuto la povertà, ha contribuito a migliorare, diciamo, la vita dei propri sudditi, fra virgolette, tanto che questi suoi giudizi mi hanno sorpreso fino al punto che io gli faccio una domanda un po', come dire, provocante, soprattutto se si pensa che sia rivolta a un pontefice. Cioè io gli chiedo: santità, scusi la mia audacia, ma mi sembra che lei in tutto quello, questo faceva seguito a tante altre domande, io gli chiedo: ma lei mi dà l'impressione di essere più favorevole al comunismo che al capitalismo? E lui sorride così e cosa risponde? Non dà una risposta precisa, ma insomma, diciamo che accetta questa domanda senza dire no, non è vero assolutamente, no, non lo dice quello. Quindi una parte di verità in questa domanda c'era. E lei che impressione si è fatto? Come la pensava sul capitalismo? Ma io credo che fosse sotto l'influenza di questi eccessi del capitalismo, queste sbavature, queste forzature, questo capitalismo un po' selvaggio, un po' ultraliberale, che era da poco ritornato dagli Stati Uniti. Insomma, era un po' forse condizionato da questa visione di un capitalismo troppo, diciamo, benevolmente energico. A un certo punto il Papa quasi sembra sorprendersi del fatto che ci sia stata in passato una grande classe dirigente, Adenauer, Schumann, De Gasperi, fatta da uomini politici cattolici, che ci fosse una classe dirigente cattolica che si era praticamente esaurita. Come lui dice, tutti i DC, dice, anche alludendo, parlando di Adenauer e di Schumann, che semplicemente non erano democristiani, cioè non erano democristiani nel senso italiano della parola, e così scherzando dice tutti i DC, no, però con un grandissimo rispetto, con un grandissimo riconoscimento del ruolo che questi personaggi avevano svolto. L'argomento viene fuori quando io gli chiedo, ora lei Santo Padre è rimasto l'unico grande personaggio sulla terra, nella storia del mondo, dopo questi altri che invece hanno lasciato grandi tracce, ma di cui non ci sono poi dei simili, degli uguali. Veniamo a un altro personaggio, cioè l'avvocato Agnelli. Ho trovato qui una cosa curiosa che non sapevo, e cioè che l'avvocato aveva con la scrittura un rapporto di disagio e imbarazzo totale. Lui, che amava tanto i giornali e la stampa, non voleva scrivere. Sì, beh, è un po' vero, cioè non è un po' vero, è vero. Non esistono lettere dell'avvocato, se ne esistono, ne esistono pochissime. Non riusciva, anche quando filmava, quando doveva firmare, perché ogni tanto doveva firmare degli atti, si vedeva che lo faceva con una certa dose di disagio. Con l'avvocato lei ebbe una polemica su un tema che è tornato d'attualità, e cioè le Olimpiadi a Roma. Sì, effettivamente, beh, io sono molto contrario, ero molto contrario, e devo dire nel mio piccolissimo ho contribuito anche a far cadere la candidatura del cos'era, quando è andata poi a Atene, con questo articolo sull'International Herald Tribune che ha creato molto, molto scalpore e ha avuto una certa influenza. E l'avvocato non è che fosse a favore delle Olimpiadi, lui il suo motto era: nel dubbio meglio fare che non fare. Allora questo motto, allattandolo alle Olimpiadi, significava accettare le Olimpiadi e non combatterle. E ripeterà quell'articolo anche se l'era al Tribune non c'è più? Non c'è Herald Tribune, ma c'è l'International Herald, sì. New York Times, che è altrettanto importante, e lo ripeterò senz'altro. E devo dire che nel libro ho scritto che ero contro le Olimpiadi ancora prima che succedessero questi scandali a Roma, quindi non è quello che mi ha condizionato, è proprio che mi sembra che sia una cosa veramente controsenso per l'Italia. Chi manca in questa raccolta? Chi è il personaggio che si rammarica di non aver potuto intervistare? Io il personaggio che vorrei intervistare è il dittatore della Corea del Nord. Insomma, lo so che non è molto popolare, non è molto conosciuto. A me mi affascina perché controlla un paese in maniera talmente totale, talmente, direi, perfetta, usando un aggettivo che non si adatta a questo tipo di attività, ma insomma lo ha reso lui e il suo padre, il suo nonno Kim Il-sung e Kim Jong-il, lo hanno reso totalmente impermeabile a qualsiasi forma di penetrazione. La gente lì è convinta di vivere nel migliore dei mondi, anche se vive nella più spaventosa povertà e nella più spaventosa persecuzione. Allora, in bocca al lupo per la prossima intervista. Grazie a Jaskarowski. Grazie, Salvatore, grazie. Un grande intervistato invece è Oscar Wilde, che nel 1882, appena 26enne, sbarca a New York per una serie di conferenze. Già un personaggio discusso, ricercato e noto, e negli Stati Uniti resterà per un anno, toccando anche Messico e Canada. Naturalmente in quell'occasione gli fanno molte interviste, che adesso sono raccolte in Interviste Americane, curato il libro da Edoardo Rialti e pubblicato da Lindau, 278 pagine, 23 euro. Questo libro raccoglie quindi questa serie di incontri con la stampa che Wilde, per la verità, non aveva in grande simpatia. Wilde infatti scrisse che anticamente gli uomini avevano la ruota di tortura, adesso hanno la stampa. Il fatto è che il pubblico ha un'insaziabile curiosità di sapere tutto, fuorché ciò che vale la pena sapere. E seguiamo dunque le tracce del grande scrittore e soprattutto l'impressione che egli si va facendo degli Stati Uniti e che lui stesso trasmette agli Stati Uniti. Per esempio, sentiamo questo giudizio sulla centralità del commercio negli Stati Uniti rispetto a quello che aveva agli occhi di Wilde rovinato la civiltà britannica. È un'intervista a un giornale di Sacramento del 27 marzo 1882. Quello che intendo è che è lo spirito del commercio a essere frainteso. Alcune delle città più meravigliose del mondo sono state edificate da commercianti, come Genova, Firenze, Venezia. Ma in Inghilterra gli uomini sono stati trasformati in macchine, ignobili e insensibili come le vorticose turbine dei marchingegni. Non sto parlando adesso del diluvio di orridi disegni e motivi sgraziati che ne è risultato. Parlo invece dell'offesa fatta agli stessi lavoratori, profonda al punto da renderli incapaci di apprezzare la vita nella sua nobiltà. In America non mi pare che ci si spinga a tanto. Non penso che il lavoratore americano accetterà una posizione simile. Nel momento in cui l'arte diventa un lusso, perde qualcosa, perché deve scaturire dalla necessità. Tutta l'arte è espressione di ciò che è nobile e gioioso nella vita. Dal lusso deriva il pacchiano, il volgare, l'effimero. Può dare il suo contributo, ma non creerà mai vera arte. E adesso una breve interruzione, ci sentiamo fra pochi secondi. Dall'ascesa dello Stato Islamico all'immigrazione verso l'Europa, dal boom economico dell'Africa ai suoi infiniti conflitti. Giornalisti, fotografi, analisti, politici, operatori umanitari e cittadini saranno ogni giorno ai nostri microfoni per raccontare ciò che accade al di fuori dei nostri confini. Sono Giampaolo Musumeci e anche quest'anno vi dimostrerò che tutti i luoghi meritano di essere visitati, che tante storie devono essere raccontate, che guerre dimenticate e vicende apparentemente distanti sono molto vicine a noi ed entrano ogni giorno nella nostra vita. Vi dimostrerò insomma che nessun luogo è lontano. Dal 27 luglio alle 16 qui su Radio 24. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parliamo adesso di biografie, di vite di personaggi illustri e cominciamo con quelle di un notissimo divulgatore del Novecento, Hendrik Willem Vallon, che fu autore di libri di divulgazione di storia e geografia appunto molto popolari nel Novecento. Era olandese di origine, americano di adozione, visse tra il 1882 e il 1944 e una delle sue opere più popolari fu appunto Le vite. Un'opera nella quale l'autore immagina delle cene, degli incontri ai quali sono invitati grandi personaggi del passato. E adesso tre di queste cene sono riproposte a cura di Antonia Aslan nel libro Vite di Vallon, pubblicato da Schirà, 154 pagine, 15 euro. Trattandosi di cene, incontriamo naturalmente dei personaggi piuttosto assortiti. Per esempio, qui nel libro troveremo una cena alla quale partecipano tre grandi maestri, Cervantes, Shakespeare e Molière, un'altra con due regine, Elisabetta I, naturalmente d'Inghilterra, e Teodoro di Bisanzio, e due artisti, Emily Dickinson e Frédéric Chopin, che confermano l'impressione che l'Arslan ragazzina aveva ricevuto quando le era stato regalato questo libro. Scrive infatti l'Arslan: mi immersi in quel mondo evocato con precisione fantastico e realistico insieme, che mi afferrò attraverso il grandissimo stimolo che era rappresentato dalla curiosità. Morti e vivi, aggiunge Aslan, si incontravano e chiacchieravano insieme davanti a un bel piatto di carne e un buon bicchiere. I grandi personaggi non erano solo immagini, icone virtuali del passato, ma vivi, presenti, golosi e allegri, si riscaldavano al fuoco e gustavano il cibo e il vino e la musica preparati e scelte apposta per loro e generosamente offerti. E infatti ogni capitolo di questo libro inizia con la preparazione della cena, con la scelta dei cibi, dei vini, delle musiche e naturalmente dei personaggi. Sentiamo per esempio dal primo capitolo la presentazione in poche righe di William Shakespeare. Se invitassimo tutte le grandi dame e i gentiluomini della Londra del 1599, l'anno in cui Shakespeare acquistò una partecipazione nel Globe Theatre, e chiedessimo loro chi, fra tutti i loro contemporanei, avrebbe avuto le maggiori probabilità di sopravvivere nei prossimi 3 secoli, il nome di William Shakespeare si sarebbe presentato tra gli ultimi. Poiché, sebbene verso la fine della sua residenza a Londra William venisse giudicato degno di entrare a far parte degli uomini del re, la compagnia di attori che godeva il favore diretto e immediato di Sua Maestà, mai i londinesi furono del tutto consapevoli del vero merito di questo piccolo uomo di provincia dallo spirito così multiforme, che nelle sue 37 opere teatrali fece quello che nessun altro fu mai capace di fare prima e dopo di lui. Poiché egli buttò tutta l'umanità in un mucchio ai nostri piedi e disse: «Ecco, amici miei, guardatela. So che è uno spettacolo assai confuso e terribile, ma non dovete esserne arrabbiati o seccati con me se non vi piace. L'umanità non è stata creata secondo istruzioni mie. Tutto ciò che io posso fare è mostrarvi il suo vero aspetto. Oltre a questo, io non ho altre responsabilità». Un'altra biografia riguarda un grandissimo matematico, Evaristo Galois, uno dei più importanti della sua dottrina, morto in duello nel 1832, appena 21 anni. Galois era un animo acceso, un fervente repubblicano che difendeva a spada tratta, si può ben dire, ogni attacco alla libertà e alla libertà d'opinione. Partecipò alla rivoluzione del luglio 1830, fu anche in prigione, ma era anche un grandissimo scienziato, un autentico genio della matematica, come recita appunto il sottotitolo del libro che adesso vi presento, che gli è dedicato da un grande fisico polacco, Leonhard Infeld, che fu autore e allievo di Einstein. Il libro si intitola Evariste Galois, la breve vita di un genio della matematica, è pubblicato da Castelvecchi, 282 pagine, 18,50 euro, ed è tradotto da Fernando Rocca. La vita di Galois viene collocata all'interno del suo tempo e della società alla quale egli apparteneva. Galois era nato da una famiglia borghese in piena epoca napoleonica, nella quale l'imperatore si occupava anche di fisica, in particolare delle teorie di Laplace, lo scienziato al quale un giorno l'imperatore rimproverò di aver dimenticato di nominare il creatore dell'universo. E a Napoleone Laplace rispose con la famosa frase: «Sire, non ho avuto bisogno di questa ipotesi». Quando Galois cresce e Napoleone è già fuori gioco, anzi Napoleone ormai è morto, sulle grandi scuole francesi scende una coltre di gelo, di assoluto conformismo, e fin da giovanissimo Galois si distinguerà appunto per il suo spirito ribelle, che lo porterà ad essere anche respinto in molti concorsi per le più importanti scuole dell'epoca. A 16 anni esplode la passione per la matematica di Galois, inizia uno studio folgorante che lo qualificherà come uno dei matematici più importanti della storia, forse il più importante. Ripeto, la sua carriera scientifica non ebbe particolari impulsi da questa grandezza, perché gli vennero negati gli ingressi in alcune scuole, addirittura i suoi studi, le sue memorie non verranno quasi presi in considerazione, in certi casi vengono addirittura archiviati, smarriti, senza che nessuno li legga, se non dopo la sua morte. E il libro di Infeld è bello perché è una sorta di vita romanzata, e dunque attraverso un racconto, i dialoghi, la ricostruzione dell'ambiente ci fa scoprire un personaggio con il quale ancora facciamo i conti. Abbiamo parlato di matematica, allora parliamo di una delle persecuzioni delle quali siamo vittime in questo tempo, l'algoritmo. Abbiamo letto nei giorni passati, sappiamo bene che l'impero dell'algoritmo continua ad allargarsi, non c'è più alcuna delle nostre scelte che non venga sottoposto al controllo di un algoritmo. E allora vi segnalo il libro di Carlo Toffalori, che è un docente di logica matematica, che si intitola appunto Algoritmi, raccontare la matematica, è pubblicato dal Mulino, 210 pagine, 14 euro. L'algoritmo non è una nostra invenzione, non è una novità, scrive infatti l'autore, che essi sono vecchi come il mondo e vantano nei secoli e perfino nei millenni passati fiori di mirabili esempi. E come si presentano questi algoritmi? Spiega l'autore che gli algoritmi, oltre che proficui e benefici, sanno essere anche leggeri e raffinati, talora geniali e mirabili come opere d'arte. E quindi ci spiega perché in questo libro, che è un libro rivolto a tutti, capace di fare ottima divulgazione scientifica con un linguaggio piano, tono colloquiale, quasi giocando, non mancano le formule, ma al termine comprendiamo davvero che cosa siano gli algoritmi, a che cosa possano, a che cosa servano e a quali sviluppi essi possano condurci. Un signore che gli algoritmi li usa e li applica è Massimo Marchiori, che è un matematico informatico e creatore di un motore di ricerca considerato alla base dell'algoritmo di Google, oltre che docente all'Università di Padova. Si intitola Meno Internet, più Cabernet, il suo libro, che è pubblicato da Rizzoli Etas, 284 pagine, 19 euro. Questo è un libro sul progresso, in sostanza, e sull'evoluzione umana, che produce, determina e a sua volta è modificato proprio dal progresso. Non è facile definire quest'ultima parola, ma certo possiamo dire che i grandi cambiamenti che hanno avuto luogo e che hanno tuttora luogo sono determinati soprattutto dall'enorme sviluppo dell'informazione, che ha determinato alcune tra le principali rivoluzioni nel corso della storia, dalla scrittura qualche millennio di anni fa alla rivoluzione digitale. Con questi sistemi informativi si è determinata un'autentica rivoluzione, quella nella quale siamo immersi, quella che si manifesta per esempio in strumenti come Facebook, i social network o Twitter. E sentiamo come Marchiori ci inviti a responsabilizzarci per cogliere le migliori opportunità che ci può offrire il progresso tecnologico. Il problema di quel progresso è che talvolta la spinta del progresso collettivo non corrisponde alla spinta del progresso pensato dai livelli superiori, che magari tendono a voler stabilizzare la situazione per trarne vantaggio. Google, Facebook e Twitter, i tre principali gestori di informazione al mondo, non hanno per ora interesse a cambiare la situazione e a offrirci carote oltre che fieno. Mantengono il pieno controllo dell'informazione e in tal modo aumenta anche il nostro rischio, che cioè l'informazione che ci viene data non sia poi una scelta pensata per noi, per farci crescere e nutrirci la mente, ma solo magari per farci restare dei tecnologici asini di Buridano. Moderni sì, ma da certi punti di vista sempre asini. Alla lunga, il problema del vero progresso in questi casi è che siamo finiti in un cosiddetto massimo locale. Una specie di sacca dove bene o male siamo a nostro agio, ma che non è il posto migliore. I posti migliori dove il progresso potrebbe portarci ci sono, ma richiedono di uscire da questo massimo locale, con magari un temporaneo peggioramento della situazione. Uscire dal dolce tepore della coperta per qualche tempo, per poi andare in un letto e sotto una coperta migliori. Il che comporta uno sforzo non da poco, rinunciare al breve termine per il lungo termine, una caratteristica che non è propria degli esseri umani, che tendono primariamente a cercare la gratificazione immediata. Ecco quindi che il progresso non è così facile. Progresso vuol dire mutamento, e questo mutamento porta al suo interno molte contraddizioni, in un mondo dove la sindrome della coperta corta regna sovrana. Il confettino. Vi segnalo un libro che non è proprio sui numeri, ma sul confronto delle dimensioni, ed è il libro di Rossana Bossù, Quanto è grande un elefante, di Cammello Zampa, 13 euro, e mette a confronto tanti animali per far capire le rispettive dimensioni, ma soprattutto per imparare naturalmente i nomi di questi animali. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Filippo Reggi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.